Excuse me, sir, is this the Delta House? Sure. Come on in. E buonasera e benvenuti alla 29esima puntata di Fuoco alle Polveri, ciao a tutti. Buonasera e benvenuti, ciao a tutti. Qui con me ho Lapo e Grippo. Oh, bella. Ciao, buonasera a Tucco. Ciao a tutti, ciao a tutti. Evviva. Ciao Tucco. Vivissimo. Allora, oggi caldo bestia, come sempre. Un bestia di caldo. Un bestia di caldo. Grazie al Dio Verda. Ecco, perfetto, poi. No, no, era così, per ringraziare tutti i partecipanti. Ah, ok, certo, in effetti sì, partecipa. Ebbene, siamo qui, 29 ragazzi oggi, come? Confermami, Grippo. Vediamo. 29 come il numero delle ossa del cranio. Ah, boh. Sì, ho controllato io. Le contate una ad una. No, ho scritto 29. L'università è fatta da tempo, caro Tucco. Non ne hai più bisogno, di sapere quante diamine di ossa ci sono nel cranio. Dice, vogliamo sapere i nomi delle 29 ossa del cranio. Allora, avevo previsto questa cosa, ho detto ora mi prendo tutti i nomi così li frego. Ma è finito internet, quindi niente. Fallisco miseramente anche oggi. Sì, ciao, avresti fatto mezza puntata comunque, forse di dire nomi. Ah sì, senza dubbio. Poi senza una cosa visiva non avrebbe avuto assolutamente senso. Frontale, parietale. Ma tanto a me non interessano le ossa del cranio, ci interessa il contenuto. Il contenuto del cranio è quello che andremo oggi a sviscerare, come facciamo ogni puntata, in modo piuttosto casuale e arbitrario. Ottimo, esattamente. Mente e caos. Mente e caos. Niente male. Ok, allora, oggi vabbè, chiacchieriamo un po' di cose, ci sono, insomma, i nostri inviati, come avevamo detto, che sono stati all'Hack Meeting e sono qui con noi, quindi qualcosa ci racconteranno, faremo un elogio speciale. Non lo diciamo. Sorpresa. Cosa, no, infatti volevo rimanere vago, e niente, boh, qualche poi altri interventi random, rimanete con noi qui su Radio Wombat. Come al solito gli eventi della settimana, le cose che dovete andare a seguire perché rendono persone migliori certe attività, certe iniziative che ci sono in città, ebbene, che noi ve le diciamo. Poi, senza dubbio, poi fate voi. Sì. Poi fate voi, certo. Se volete andare al mare, andate al mare. Cioè, sommato, non possiamo. Beh, questa settimana deve scegliere perché si accavallano diverse questioni. Anche l'esame di maturità quest'anno, questa settimana. Sì. Cosa c'è lì? Allora, questo fin verso giovedì dovrebbero iniziare gli orali delle medie. Mentre le superiori iniziano gli iscritti a breve, sì. Quindi una grande ansia. Beh, un in bocca al lupo, diciamo, a tutti quelli. Un grande in bocca al lupo, solidarietà ai compagni e alle compagne che stanno ad affrontare questi scogli della vita, imposti da un sistema scolastico che ti giudica e ti valuta in ogni secondo. Superatela e mandatela a fanculo, perché la vita è bella e proseguirà un sacco di roba. Senza per questo denigrare l'importanza dello studiare, per essere più consapevoli. Anzi, rimarcando l'importanza dello studiare, senza dubbio, autonomamente, con senso critico, ascoltandosi i consigli degli altri, ma non per forza l'autorità di chi ti impone cosa studiare, come studiarlo, come senza ripeterlo. Dubbio. Secondo me la cosa più grave è come, appunto, aiutando diversi ragazzi a preparare questi esami, per esempio in terza media c'è la giornata dedicata solo e soltanto agli invalsi, i nostri amati invalsi. Allora, una cosa tremenda, che valutano davvero le persone, non lo so, li incanalano, li incasellano per decidere già come sarà il loro futuro, quando invece la mente e la produttività dei ragazzi non può essere codificata, perché ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue tipologie di menti, di immaginazione. Certo. E quindi è veramente una stronzata colossale. Valorizzare le differenze, non omologare. Assolutamente. Già la valutazione è difficile, cioè quanto più ci si focalizza su quella, io credo quanto più ci si allontana, ci si distanzia dal concetto di educazione che forse dovremmo avere. Cioè, l'importante è che una persona diventi abile e capace di vivere in questo cavolo di mondo. Non è che non è che servono parametri precisi. No, esatto. Poi, per carità, cioè, nel senso, il nostro sistema scolastico è così da sempre, e quindi si va avanti su quella linea, e è difficile cambiare. Però, nel senso. Però si può fare tanto lavoro individuale per contrastare le dinamiche alienanti o omologanti che ci vengono imposte, certo, storicamente. E abbiamo visto un esempio proprio riguardo all'educazione, al campo dell'educazione, o meglio della come si dice, modo non brutto per dire educazione, la formazione, vabbè, insomma. Beh, dipende. Domenica scorsa al mercato del contadino, esatto, che si svolge in Polveriera, c'è stato un incontro con varie realtà che si occupano di educazione libertaria, E niente, sono delle alternative interessanti, non, chiaramente non sono la risposta a quello che stiamo dicendo noi, al problema, diciamo noi, però sono delle alternative che pongono delle questioni sull'educazione scolastica molto interessanti e che le istituzioni dovrebbero ascoltare e che invece non ascoltano. No? Sì, giustissimo. No, stavo facendo versi per far capire altre cose, perché mi stava venendo in mente una canzone da suggerire. Se mi passi la chiavina, si manda dopo. Così abbiamo fatto tutto sto esploato, tutta sta panoramica sull'educazione, o comunque su... Facciamo che mando un pezzo suggeritomi, sì, dal nostro Tuco, e nel frattempo... Cosa ci mandi? Un Tuco pezzo. Creedence Clearwater Revival. Band. Not bad. Bene, rimanete con noi a fra Never poco bad. Su con Fuoco alle Polveri, qui su Radio Wombat. Wombat. Rieccoci qua. Fallo partire sto basso. Fallo partire tu. Senti qua come pompa. Diamoci gli occhiali da soli. Ok, adesso siamo pronti. Siamo pronti? Sì. Ottimo. Mezzo pacco di sigarette. Il serbatoio pieno. Indossiamo entrambi gli occhiali da sole. ed è notte profonda. Non ci vedranno. Siamo in missione per conto di Dio. E in missione per conto di, non di Dio, ma di tutti i nostri compagni che erano rimasti ad aspettarci qua a Firenze. Siamo andati a raccogliere un bel po' di conoscenze e competenze in quel grande evento fantastico che è stato l'Hack Meeting di quest'anno. Quest'anno Hack Meeting di questo fine settimana che si è tenuto, appena passato, che si teneva in Val di Susa, Vanhaus, dove... dove si teneva appunto quest'anno l'Hack Meeting. Ebbene, ribadiamo che cos'è questo Hack Meeting. Allora, dici Grippo. Boh, Hack Meeting intanto è un raduno che insomma viene portato avanti da molti anni. Questo è 20 anni. Il ventesimo Hack Meeting. E forse il ventesimo. No, forse il quattordicesimo era. Sì. Una cosa fra 0 per 14 c'è la diversi scrittura. Anni che lo fanno, via. Sì, è parecchi anni che lo fanno. E l'anno scorso fu a Pisa. Sì. E grandissima novità di quest'anno è che per la prima volta Hack Meeting è stato fatto in uno spazio non occupato, diciamo, nel senso non è propriamente vero. Non propriamente vero, però nel senso diciamo non in uno in spazio cittadino, non in uno spazio occupato di una, nelle nostre città. Insomma, tutti gli anni passati Hack Meeting si è sempre svolto in spazi liberati, in spazi autogestiti, occupati in varie città d'Italia. Quest'anno per la prima volta non era la città il contesto in cui si è svolto, bensì una valle, la Val di Susa, precisamente Vanhaus, che è un paesello proprio lassù in cima, vicino al cantiere del TAV. Precisamente nel presidio che è stato costruito nei pressi di Vanhaus, che è appunto proprio è un luogo autogestito, occupato e autogestito per portare avanti la resistenza contro il TAV. Quindi in realtà anche lì si trattava proprio di uno spazio occupato, uno spazio autogestito. Sì, benché il comune di Vanhaus, il presidio no TAV, no? Benché il comune di parlare di occupazione all'interno di un comune che è dichiaratamente no TAV. E che quindi favorisce un'esperienza del genere, un presidio di resistenza. Parlare di occupazione è un po' strano. In questo senso non è un'occupazione, ma non perde la carica. Ora non voglio dire rivoluzionaria, ma quantomeno. Beh, sì. E poi l'altra struttura che stava dall'altra parte della strada, invece, cioè, nel senso, era messa proprio a disposizione dal comune, da quanto ho capito, no? Cioè, tutte le stanze, c'erano delle aule bellissime. Sì, c'è stato durante quest'anno, a quanto ho capito, è stato costruito grazie al contributo di Solidali Notav, un'area per con sale conferenze molto ben attrezzata. E questo ha favorito anche gli incontri, la funzionalità di questo ritrovo annuale, di cui ora vi raccontiamo qualche dettaglio. Lo so aggiungere che appunto da 20 anni la comunità hacker italiana si ritrova in questo appuntamento annuale, mentre durante l'anno porta avanti nelle singole città i vari percorsi, gli hack club. Appunto il ritrovo annuale dell'Hack Meeting è proprio il luogo in cui tutte le varie esperienze, i vari percorsi si incontrano, si confrontano e condividono quei saperi che hanno elaborato, che hanno raccolto. Infatti il motto intorno al quale si sviluppa l'Hack Meeting è proprio condividere saperi per affondare poteri, condividere saperi per non creare poteri, era un po' giocata perché su questo. Perché ribadiamo, cioè l'attitudine hacking non si riduce alla questione di avere un computer e saper spippolare un computer. Hack, tu hack, diciamo, il verbo hack, hackerare, eccetera, eccetera, così, all'interno, allora, vabbè, ovviamente assume assume in molti casi come da immaginario collettivo, diciamo, su certo. Questo... Un carattere informatico, tecnologico, tutto. Però te hackeri un qualcosa nel momento in cui, consapevole della realtà, ti applichi, ci metti le mani sopra e ti riappropri per piegarla al tuo volere alla fine, cioè per per far sì che per renderti più facile la vita. Cioè, se te prendi un qualsiasi, non lo so, se uno prende un motore, lo attacca a una bicicletta e ci fa una bicicletta a motore, va a giro, ha già fatto un hack in qualche maniera. Se uno salda una cosa che altrimenti sarebbe dovuto andare dal fabbro a farsi saldare, lì ha fatto un hack, cioè nel senso... Sì, si tratta di riappropriarsi delle competenze dei mezzi, di ciò che ci circonda, quindi anche... E poi condividere, però. E soprattutto, cioè, condividere. L'altra faccia della medaglia è questa, no? Infatti quando il lavoro degli hacker, soprattutto... Soprattutto in Italia, che hanno un senso del politico molto forte, sì. La comunità che lavora molto sulla diffusione di programmi open source, cioè programmi non coperti dai diritti e quindi liberamente utilizzabili, in barba a tutte queste grandi marche, case, come si chiamano, che ci vendono questi programmi super bomba, senza comunque, la possibilità di... Cioè Microsoft, Apple, che dominano. Sì, fondamentalmente. In questo senso. Che dominano la scena, ma anche altri sono i cattivi, nel senso. Certo. Cioè, se ne potrebbe stare a parlare molto, e sicuramente, insomma. Anche perché i programmi open source non sono solo. Come si dice? Liberi, nel senso gratuiti, dici. Ma vai a svilupparli, volevi dire quella cosa lì. Non si parla solo di sistemi operativi tipo Linux, ma si parla, no, anche di altro, anche proprio di programmi, anche. Sì, roba, certo. Appunto, non so, costruzione di antenne. Sì, ora ho fatto un esempio con i programmi open source, ma è chiaro che il campo di applicazione dell'approccio hacker, cioè, proprio è olistico, mettere mani su tutto, riappropriarsene. Sì, ho detto olistico, volevo usarlo almeno una volta in questo momento. ci sta come termine. E oltre, cioè, nel senso, te quando... Ah, Harry, quando fai un hack, così tutto quanto, cioè, l'hanno detto in tantissimi, cioè, è il nostro modo per fottere il capitalismo, cioè, nel senso, il capitalismo arriva lì e ti dice, oh, ma chiama questo numero, fai venire il tecnico, oppure rivolgiti a questa azienda, fai questo, fai quest'altro, dai soldi e ti sarà dato quel determinato servizio. Sì, che poi molto spesso, diciamo, è quel determinato di servizio. Con questo significato ampliato, cioè... Tal proposito, uno degli argomenti che ha attraversato questo hack meeting è stato ad esempio quello delle radio AM, delle radio, insomma, quindi ha coinvolto anche Radio Wombat, anche noi in prima persona, proprio in quanto si tratta di riappropriarsi della conoscenza, della capacità di... costruirsi una roba per poter trasmettere in radio, cosa che è appannaggio soltanto di chi può permetterselo, di chi può comprarsi una frequenza a prezzi altissimi, cosa invece che non è assolutamente vera, dal momento in cui, se tu impari come costruirti una roba per trasmettere e cominci a farlo, fanculo a chi ti chiede soldi per farlo, a chi ti impedisce di farlo, ti impedisce di esprimere, fanculo, sì, fanculo alle pubblicità, fanculo al capitalismo. E quindi Radio Wombat è stata l'hack meeting anche in veste di condivisore della conoscenza, quindi ha fatto un hacking, ha hackerato il sistema come si chiama? Sì, era un hacker e non lo sapevo. Le onde medie, cioè. Allora, noi abbiamo fatto un'azione hacker imparando a fare quello che stiamo facendo in questo momento, no? Alla fine dei conti. Exactly. In questo senso allargato che abbiamo voluto dare, certo. Nessuno di noi è un grande spippolone. No, però io nel senso, zero, ragazzi, proprio zero. Si spippolicchia nel nostro piccolo e con le nostre piccole conoscenze, con le nostre piccole competenze acquisite, cerchiamo di ampliarle e di trasmetterle e di capire e di fare. Sì, che poi non è vero che non spiccia. Io molti dei seminari a cui ho assistito sono rimasto incantato e ho intuito certe cose non capendoci niente, perché è un in alcuni casi trattava di un linguaggio a me completamente estraneo. però ad esempio il presente Grippo, che un pochino più di competenze informatiche ce l'ha, ha raccolto ad esempio qualche qualche cosa di utile per raccontarci. Assolutamente. Mega incontro, condivisione di saperi, cosa avete imparato? Allora, c'erano un sacco di talk, erano chiamati talk, ed erano una sorta di conferenze praticamente, dei talk, no? In cui delle conversazioni, sì, in cui qualcuno presentava un lavoro da lui fatto. È molto carino dell'hack meeting, è che quando sei lì hai la percezione di stare dentro una cosa che si sta formando, no? Hai la percezione di farlo anche te, e lo fai anche te effettivamente, perché è una cosa autogestita, quindi nel senso, se sei nelle logiche di centri sociali, autogestioni, già ti senti parte subito, immediatamente, una volta arrivato, di tutto quanto il progetto, di tutto. All'ingresso c'era scritto: ad hack meeting non ci sono partecipanti né organizzatori, ma solo partecipanti. Quindi non sono utenti né organizzatori, ma solo partecipanti. E quindi se sei lì sei già parte dell'organizzazione, sì, devi essere responsabile dell'evento, certo, spazio. Magari proprio in prima linea non ti senti, perché non ci sei stato, magari la prima volta ci vai, ma in seconda sicuramente, cioè nel senso, sei lì comunque, sei in quel gran pentolone in cui succedono le cose, ed è bellissimo anche proprio come percezione tutto quanto. Nello specifico i talk si rivolgevano, hanno fatto moltissimi talk di base quest'anno, e questa è una cosa molto interessante, e se ne è parlato molto anche nell'ultima assemblea di Hack Meeting, che tutti i giorni c'era un momento di assemblea in cui orizzontalmente ci si riuniva e si poteva parlare di tutto quanto, e questa apertura verso tutti quanti ha fatto sì che la partecipazione a questo Hack Meeting fosse più eterogenea ancora degli altri anni. Dicevano che già negli anni scorsi si osservava una maggiore eterogeneicità dell'utenza, cioè dell'utenza, e quindi anche della parte sì, ci sta, probabilmente due o tre. Hai tirato una parola. Insomma, c'era un po' di tutto, c'erano tante persone come noi, c'erano tante persone che già erano in Hack Meeting da anni, ma tutti quanti hanno ricevuto qualcosa, c'è stato scambio. In questi talk, nello specifico, si può entrare anche nello specifico, però ora mi sa che sono 5 minuti buoni che si chiacchiera di Hack Meeting, forse sarebbe buono alleggerire con un pezzettino frizzante. Allora facciamo così, raccontaci nello specifico, dopo il pezzo che stiamo per bandare, cosa hai imparato, un esempio per far capire agli ascoltatori già, perché sono che già cosa andato a vedere. Davvero nel pratico poi uno può andare ad acquisire come competenze. Certo. Quindi ascoltiamoci, sollazziamoci un po' con che cosa, caro Lapo? Questo è Salva l'uomo dei Blue Vertigo. Parlavamo prima di scuola, di cose, ce l'ho infilato nel mezzo. Fatto benissimo. Mi piace un sacco, dai. Il Blue Vertigo, forza. Prima che si bruciasse Morgan, dai, andava sostenuto. Ora si è bruciato, quindi mo basta. Ciao. Però insomma, qualcosa di buono. Dall'album Acidi e Basi. Bella Salva l'uomo. Storia. One Bad. Veramente annoianti, persone che non sanno mai cosa dire. Andare a messa mi è sempre dispiaciuto, andare a scuola non mi ha mai aiutato. Certi insegnanti con le giacche e le cravatte, che difendevano pensieri antichissimi, hanno provato a punirmi duramente quando volevo esprimermi liberamente. E i vestiti e l'orecchino, e cosa fumi che fa male? Non cantare che disturbi, ti dovrai pure adeguare. Hanno tentato di cambiarmi, non ci sono riusciti. E io scoperto per dispetto che l'unica via d'uscita è la fantasia. Salva l'uomo, la fantasia è libertà. La fantasia mi permette di giocare, di pensare, di mangiare, di suonare, di studiare, di cambiare solamente come mi giorno in cui vorrei sotterrarmi. Forse è Manzoni che reprime la mia gioia, dicendo gioia non intendo leggerezza, ma semplicemente un desiderio di diventare qualcosa. Ci sono luoghi in cui non riesco ad andare, perché la gente veste tutta uguale, non si divertono a far diventare il proprio corpo un'opera d'arte. Conosce il cerchiale e gli occhialini e poi il codino, e cosa meglio che stai male, non suonare fino a tardi, c'è chi vuol dormire. Hai tentato di cambiare e non ci sono riuscito, io sto detto per rispetto che l'unica via riuscita è la fantasia, salva l'amore, la fantasia è libertà, la fantasia mi permette di giocare, di pensare, di mangiare, di suonare, di studiare, non studiare, di cambiare solamente come mi pare. Salva l'uomo, la fantasia è libertà, la fantasia mi permette di giocare, di pensare, di mangiare, di suonare, di studiare, di studiare, di cambiare solamente come mi pare. La fantasia mi permette di giocare, di pensare, di mangiare, di suonare, di studiare, di studiare, di cambiare solamente come mi... E rieccoci. Dicevamo del Luck Meeting e della nostra... la visita di Radio Wombat e alcuni di noi a questo evento che si è tenuto a Venaus in Valsusa. Dicevamo tre giorni pieni di talk, conferenze. Una cosa divertente, c'erano ogni sera si chiamano i 10 minutes talk, ovvero era uno spazio aperto a chiunque volesse intervenire, fare un intervento non programmato. 10 minuti di tempo per esporre una propria idea, un proprio progetto, una propria cosa. Ti ricordi qualche cosa hanno detto? Sì, una cosa fondamentale che però non posso dire perché perché non voglio, perché potrebbe essere pericoloso dirla. Un'altra? Un'altra, c'è una mappa che... mappa sul territorio italiano, tutti quegli esercizi ospedalieri, farmaceutici, sanitari, volevo dire, che non fanno obiezione di coscienza, non sono obiettori o quei presidi consultori attivi sul territorio. E quindi presentavano questa mappa interattiva in cui si poteva aggiungere, appunto, segnalare i vari... Ed è un progetto portato avanti da un gruppo, da un collettivo che ha partecipato all'8 marzo, non una di meno. Per esempio... E si chiama Medico Bigotto Finder? No, obiezione... Oh mio Dio... che vergogna, lo cerco dove lo ritrovo, non mi ricordo il nome. Ti chiedo scusa, volevo metterti in imbarazzo. Era una battuta la mia. No, poi questi 10 minutes talk erano molto interessanti, figata. Molto veloci. Alcuni molto divertenti. E veramente, cioè, spassosissimi, perché insomma, erano momenti di spontaneità assoluta, capito? In cui certo. Una persona semplicemente un qualcosa su cui ha lavorato, un qualcosa che sa. E cioè, era chiamata semplicemente a condividerlo e si vedeva proprio che la gente lo faceva con piacere e che venivano fuori cose fighe, perché alla fine in 10 minuti è anche un formato figo, no? Cioè in 10 minuti è troppo corto, né troppo lungo. Esatto, con due slide e due paroline, insomma, hai introdotto un bel concetto. invece i talk, quelli più corposi, ecco. Abbiamo già citato quelli di base, che sono quelli, i talk di base che erano rivolti più a un pubblico appunto più eterogeneo, che era quello di quest'anno, ma anche per affrontare argomenti in modo più generale, per rimettere in questione certe domande che muovono un po' il lavoro di questa comunità. Cioè, ad esempio, non lo so, talk di base su, non so, internet, mettiamo, autodifesa informatica, internet, erano cioè, alcune cose noi magari le sapevamo già, oppure nel senso, insomma, ci sono evidenti anche soltanto dalla navigazione in internet, no? Navigando in internet ti accorgi che determinate pagine ti vengono suggerite, delle pubblicità vengono calcate proprio sul tuo profilo, insomma, trovi proprio l'immagine del prodotto che stavi cercando e anche l'immagine delle volte del prodotto che ti potrebbe venire in mente di cercare, per dire, non lo so, magari a 28 anni inizi ad avere, non lo so, prodotti per bambini, metodi contraccettivi, metodi per insomma, test di gravidanza, roba del genere, perché Google, o comunque nel senso la rete, riconosce il fatto che tu stai in quell'età, che è la fascia in cui si hanno figli in generale in Italia, e quindi magari ti propone quella cosa lì. Insomma, nel senso, anche soltanto, cioè, spesso, ad esempio, c'è stato un talk di base proprio su internet, su cosa internet, cioè, su le tue immagini, i tuoi dati, com'è che vengono utilizzati dalla rete e dov'è che rimangono, chi è che li prende. Sono tutte cose interessantissime, ti facciamo rendere conto che la difesa migliore che ci puoi avere è proprio la consapevolezza. Non è che esiste uno strumento, un cazzo di programmino, certo, che ti garantisce di stare tranquillo. Te devi arrivare ad essere, cioè, devi arrivare ad essere consapevole di quello che loro sanno di te. Di anche semplicemente del fatto, per esempio, a me ha colpito anche una frase in cui all'inizio di uno di questi talk è stato detto, no? La gente a giro dice siamo controllati, sanno sempre dove siamo, frasi del genere, no? Per forza sanno sempre dove siamo e siamo sempre controllati, perché per far funzionare un determinato tipo di tecnologia ti devi attaccare, cioè per averci il 4G ti devi attaccare a una cella che manderà il segnale in quella zona dove sei te, e quindi per forza sa dove sei te, cioè, se vuoi internet per forza qualcuno saprà dove sei, e anche soltanto esserne consapevole. Però è già un'arma in più, cioè... ci sono comunque dei modi per rendere più difficile tracciare la posizione dell'utente. Certo, hanno spiegato i vari, hanno parlato di varie cose, ora nel senso spiegarlo non sarei in grado, parlarne comunque anche senza esempi visivi sarebbe difficile, penso, anche per chi... Però per chiunque volesse provare, chiunque fosse interessato, ricordiamo che tutto il programma dell'Hack Meeting è stato registrato, ci saranno i podcast da potersi riascoltare. E quindi tutti questi talk di cui parlavamo, ma ce ne sono un sacco che non sono citati, dal talk sull'introduzione alla fisica quantistica, alla costruzione di una radio AM, a appunto corso di sicurezza digitale, a un talk su come gestirsi i rapporti con i giornalisti, cioè che era una cosa tipo come fottere il sistema giornalistico per fargli passare quelle cose che in genere tendono a censurarci, a noi come movimento, come persone, come collettivi attivi, quindi insomma tutte queste cose saranno sono riproposte in podcast se andate sul sito hackmeeting.org, giusto? Sì. Sarà tutto caricato. Sì, certo. Vabbè, rimetteremo il link, comunque lo potete trovare anche nel podcast della settimana scorsa. L'aggeggio per registrare le... gran figata, lo volevo dire. Non per nulla è un aggeggio costruito. Il direttoforo è stato chiamato. Ed è una macchinetta, ora io... parlo con termini veramente grossolani da bar, ok? Diciamo una macchinetta che attaccata a un sistema, a un mixer, a un qualcosa che dia segnale audio, riesce a staccare quando l'audio va a zero, attaccare quando l'audio arriva sopra una certa soglia e registrare, cioè con quella lì sono state registrate tutte le conferenze, cioè tutte le talk, diciamo, con senza bisogno che qualcuno stesse lì a pigiare il pulsante. E tipo, non lo so, per lo scorso festival di letteratura sociale che c'è stato in Polveriera sarebbe stata una cosa tipo una manna dal cielo, cioè una cosa quindi da poi sbavare. Tipo quelle volte in cui fai il registro di una presentazione, poi c'è il momento delle domande, fai le domande, poi devi spostare il microfono, darlo, c'è tutto quel momento di silenzio, lo eviti con questo sistema, per esempio? No, il punto è che quello lo registra da sé, da esatto, l'hanno presentato all'inizio e poi ci hanno registrato tutto quanto l'hack meeting con questo sistema qua. Niente, è uno strumento che riesce a capire quando c'è segnale audio e inizia a registrare, registra una traccia, poi sparisce il segnale audio, poi ovviamente ci saranno dei parametri che puoi impostare te, no? Magari gli dici sicuramente, poi io lo sto sopra parlando un certo livello, no, gli dirai magari dopo un minuto di silenzio stacca, e allora quando c'è un minuto di silenzio ti stacca la traccia e allora ti farà traccia 1, traccia 2, traccia 3, traccia 4, figata, e okay, te poi puoi risalire all'incontro che è stato registrato. Potremmo addirittura primo, fare il fuoco alle polveri d'ora in poi senza di me, cioè che voi parlate quanto volete e quando finite di parlare parte automaticamente la musica senza che ci si età è buona che io magari metto. Però c'è il pezzo a metà, infatti meno male non l'abbiamo capito bene com'è che si usa il direct offer, perché se no il nostro amico Lapo, il regista un po' è venuto, vi ha stordito giusto per Lapo Marola, sì. Lapo Marola, sì. Senti, ma invece te che un pochino ci chiappavi in quel linguaggio per me incomprensibile, ma ora un pochino sto. Però ad esempio una cosa l'ho riguardata di già, insomma, provavi a spiegarmi una cosa ieri sera. Sì, sono tornato, ho sentito un talk molto interessante, non lo so, cioè poi ci si rende conto della paranoia, no? Cioè gli hacker, cioè tante delle persone lì presenti sono persone che si pongono problemi, insomma paranoie anche su se stesse e sui propri dati sul computer, e uno di questi talk parlava ad esempio di Tails, che Tails è una distro, cioè diciamo è un sistema operativo che live, che è un Ubuntu live, un Linux live, ok? Un sistema operativo live che va su chiavetta e lo si trova su internet, se uno scrive Tails come, quindi se live come code, cioè diciamo. Se tu hai il sistema operativo Windows, poi con quella chiavetta, certo, qualsiasi sistema operativo tu abbia, puoi andare su internet, cerchi su Google, proprio veramente, poi sono andato a ricercarmelo perché me lo voglio fare sta chiavetta ponza, che ora vi spiegherò come funziona a grandissime linee, perché insomma qualcosina ci appo, ma veramente qualcosina. E praticamente te dal tuo computer puoi riuscire a creare una chiavina e praticamente quando vai a accendere il computer, no, dal boot menu, dargli insomma il boot da chiave o da CD se lo vuoi fare su un DVD, però è di 4 giga, quindi boh, insomma, stiamo parlando della schermata proprio meglio iniziale, una chiavina, la prima. Ti consigliano di usare una chiavina da 8 giga per fare questa cosa, e in questa chiavina da 8 giga poi ci sarà 4 giga di sistema, di Tails, di questo sistema operativo, e una cartella di in cui mandare, cioè in cui lasciare i dati permanenti che vuoi, cioè se scarichi qualcosa, se fai qualcosa, certo, nel frattempo nella sessione te li lasci in quella cartella lì che non viene cancellata. Tutto il resto che viene fatto in quella sessione usando Tails passa attraverso Tor, che la rete, diciamo tra virgolette, a cifolla, no? Che funziona, che sì, sì. Parole poverissime, la tua connessione passa da più computer di modo che non possano rintracciare te, quindi si passa da 3 computer dopo il tuo, e quindi la tua navigazione a quel punto diventa anonima, cioè perché non riescono più a rintracciare te. Ad esempio, utilizzando, cioè è stato carino e utile, diciamo, più che carino, assistere a questo talk, perché in 10 minuti, ma anche in 5 minuti, basta sapere che esista sta cosa, poi su internet te la puoi andare a cercare, farti una cavolo di chiavina e poi puoi andare a lavorare e cercarti le informazioni di che cazzo ti pare sul computer di lavoro, staccare sta chiavina e sparisce tutto e senza, che, sape- il boss possa senza che il boss ti possa rompere il cazzo, cioè se puoi fare tutto, cioè te la porti dietro e semplicemente quando te vuoi accedere anonimo e guardare un qualcosa che tu non vuoi che sia ricondotto a te, utilizzi quello. Ovviamente devi farlo in maniera intelligente, in tantissimi siti non puoi nemmeno entrare, in tantissimi siti hanno il login, ovviamente se te poi vai a cercare le cose che riguardano te in quella maniera poi ti possono comunque ricondurre quella, certo, connessione. Sì, c'era tipo l'esempio che se te vai con la tua retro normale, vai su Facebook, poi ti sconnetti così Tail e vai e torni su Facebook, insomma sì, è piuttosto intuitivo che sia la stessa persona. Non ti fa nemmeno entrare Facebook nello specifico tra gli esempi. Sì, poi il concetto era quello. Però comunque quello, cioè, ti stai a fregare da solo se fai una cosa del genere, perché stai dicendo che cioè, sì, sono io ma che da un altro... Sono io però ho camuffato, cioè lì a quel punto a maggior ragione sei fregato. Però, e questo poi in realtà rientra dentro il discorso del non essere rintracciabile, non dover per forza finire in queste grandi liste di tutti i nostri quelle cose che ci piacciono, non per fare le cose illegali, no? Cioè, sì, non è certo, che oppure anche brutto, cioè, non è che... Vabbè, no, sì, però l'obiettivo appunto è staccarsi dal controllo delle nostre informazioni personali. Totale, certo. Per chiunque pensi che ad esempio Google non abbia il diritto di farsi i cazzi nostri, semplicemente, cioè Google per dirne una, ma sì, che poi ragazzi, cioè, Google tutti, guadagna col nostro lavoro gratuito, perché noi dandogli tutte le nostre informazioni Google straguadagna su di noi, quindi anche questo magari. Infatti, in generale l'indicazione è di guardarvi intorno, cercare un po', perché è pieno di programmi, software, cose che non per forza dovete andare a rivolgervi alle grandi aziende, a chi specula poi sul servizio, sicurezza che offre, diciamo, o che mette a rischio la sicurezza dell'utente. Ci sono un sacco invece di alternative, a partire proprio da tanti programmi, tante cose, tanti servizi, anche la rete autistici inventati, ad esempio, che è una delle anime dell'Hack Meeting. Mette a disposizione un servizio di mail o blog o siti web che dà delle garanzie anche etiche, un pochino migliori, sì. Cioè, sicuramente li abbiamo conosciuti, li abbiamo visti quelli di, cioè, non lo so, almeno per quanto mi riguarda, vedere e conoscere le persone è la maniera più facile per fidarmi, ecco, fin quando rimangono, soprattutto quando partono da presupposti di sono compagni, cioè sono, è sì, gente, no, cioè non lo so, lo fa per solidarietà, per lotta contro il sistema, per anche per passione, per passione. E infatti, insomma, c'è altro che da rendere merito e ringraziare chi tira su questi eventi effettivamente completamente auto-organizzati, autofinanziati, assolutamente non a scopo di lucro, che dedicano quel poco che guadagnano a questi eventi per aiutare le situazioni, come quest'anno è stato appunto il TAV. A fine Hack Meeting, nell'assemblea plenaria, è stato deciso che i ricavi del baretto autogestito dell'evento andranno ad aiutare il Notav, cioè al presidio lì di Venaus. E qual era l'altra? Eccoci, lo sapevo, io speravo te la ricordassi te. Mi ricordo anch'io una grande parte ai Notav e l'altra parte non mi ricordo a chi veniva data. Comunque il benefit è stato splittato, da quanto ho capito, lo troviamo, 50. Lo troviamo. Comunque questo era per dire, date valore, andiamo a merito a queste iniziative e all'Hack Meeting, e non solo, perché appunto l'Hack Meeting si svolge una volta all'anno. Forse l'anno prossimo sarà a Genova, peraltro. L'anno prossimo forse o a Genova o a Milano, ho sentito, se non addirittura oltre Alpe, però a parte questo, tenete d'occhio il sito, iscrivetevi alla mailing list per essere aggiornati. Più o meno di questo periodo. E comunque guardatevi intorno nelle vostre città, perché ci sono molti hack club che durante l'anno portano avanti, poi approfondiscono i temi che poi vengono riportati e condivisi nei meeting nazionali. Infatti viene fatto un po' così, suppongo, l'hack meeting, anche nel senso queste persone portano avanti a club durante l'anno, si ritrovano poi all'hack meeting e quello di cui andranno a parlare e le cose che stanno sviluppando magari sono già sapute all'interno del gruppo, ma viene tutto deciso all'ultimo momento, cioè all'assemblea del giovedì prima di hack meeting vengono decisi poi effettivamente i talk che verranno fatti. Sì, ora questo è un po' una cioè in realtà, a quello che ho capito, tentano ogni anno di essere più efficienti da questo punto di vista e lasciare meno all'improvvisazione e riuscire a organizzarsi un po' per tempo, sia per essere più aperti, cioè per dare al pubblico almeno con un po' di anticipo un programma a cui far riferimento. Sì, anche perché questo è stato l'anno meno improvvisato e infatti meglio riuscito secondo loro, tra l'altro. Infatti cioè, una buona organizzazione precedente consente poi una migliore gestione lì dal vivo e anche la partecipazione di chi organizza, di chi è comunque più dietro alle cose, di godersi anche i momenti di certo, anche perché molto spesso uno il problema è chi organizza le cose che poi non riesce a poi chiaramente il discorso è che è una comunità molto grande che si incontra difficilmente tutti insieme, perché appunto essendo molto grande e sparsa per l'Italia e non solo, si organizzano tramite la mailing list di hack meeting e quindi questo comporta dei limiti, delle difficoltà poi pratiche che appunto a volte portano a improvvisare o non sapere bene fino all'ultimo, ad esempio, a che orario sarà quel talk o quell'altro. Però se uno è consapevole e partecipe dell'autoorganizzazione è chiaro, certo, che non c'è da lamentarsi, cioè, ma solo da rimboccarsi le maniche. Se sei spettatore attivo, tutto sommato questa slittare i tempi non è un problema, perché tu vivi proprio tutta la questione. Bene, senti, ci rinfreschiamo un attimo, beviamo un bel sorso di birra. È una Ti chiederei se hai voglia un po' di Irish song, se hai voglia, o se no se hai scelto un altro pezzo. Senti, tu mi hai piazzato qui questa cosa e non c'è scritto se è Irish song, però che c'è scritto? Propeller Heads feat. Miss Shirley Bassey. No, you choose an Irish song, my friend. Irish. Sì, però an Irish song, my friend. Yeah. Oh, yeah. About? About meeting people to the pub. Ah, meeting people in the pub and drinking how beer together. Ok, c'è scritto Irish nel titolo, quindi yeah, of il course. Nostro tuco. This. Let's go with this Irish song. Quindi un sorso di birra per tutti voi ascoltatori qui su Radio Wombat, fuoco alle polveri. Bashar ringabadu abada. Wombat. There's a county pub to go with the wall, a hurl, a stick and a shinty ball, the brick, the crack, the crack and all, let's call it an Irish pub. Every song you can hear from the girls, you find a Chinese crack, the guy who wanna be daddy crack, we'll call it an Irish pub. To swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in your ear. Rap off, be folk, the lock of verse to filthy mark. If you draw one more shot, give me beer. Irish pub, the quick run in the field, you bolt the wine glass across the back. Gary on, Chesney, I'm Irish, Molly Malone, a bunch of slant, a punk, my home, we got us an Irish pub. They put the punches, trick the willows, strike me up, the rakes are mellow, a lick, he never ran so shallow, we got us an Irish pub. Got a big foot to swear upon the Hollywood, the only crack you get is a slap in the knee. Got a big foot to run the first, your filthy mug, if you draw one more shot, I'll keep me che mixaggio, attenzione ragazzi, alta qualità di musica qua giù su Radio Wombat, poche le polveri. Senza incensarci troppo. Vabbè, ma grazie per i complimenti, grazie. Grazie Tuco. Volevo rientrare un attimo sul... abbiamo chiuso l'argomento Hack Meeting e poi ne riparleremo, magari avremo ospiti, tanto le cose che promettiamo sempre e poi non manteniamo, ma... Poi magari col tempo ci andiamo a rivedere un po' di cose che abbiamo imparato piano piano e ve le... C'è un'altra cosa che abbiamo... C'è un'altra cosa che abbiamo imparato ad apprezzare e a stimare in questa trasferta. Dovete sapere che appunto l'Hack Meeting in Valsusa... gli alloggi erano campamenti di tende, abbiamo dormito in tenda, c'era posto per le tende, ma questa volta il vero godimento quando è che l'abbiamo raggiunto? Abbiamo raggiunto appostando non le tende per dormire, bensì le amache. Questo oggetto amaca is new tenda, ragazzi, appesi tra due alberi in quella sospensione magica, assolutamente magica. In barba a chi dice che è uno strumento scomodo, che si tira a salutare, che abbiamo fatto questa prova sperimentale, perché io devo... Sono evidentemente persone che non hanno provato realmente la macchina. Sì, io non l'avevo mai provato, avevo no, anche... Ora esempio. Ecco, il momento dell'esempio pratico, eccolo qua. Perfetto. Avevo anche i miei dubbi. Tempo, Lapo Marola, sentiamo un po' l'esperienza di Lapo Marola. La mia esperienza è che... Ragazzi, c'è la soluzione, non ha più senso stare in piedi una volta che c'è la maca, non ha più senso nient'altro. Quanto è vero. Non capisco perché l'umanità ancora non abbia complessivamente accolto questo spunto evolutivo e continuiamo a comprarci letti, a materassi, materassini gonfiabili, materassi ad acqua. Ma che cazzo vi non potete stare appesi in un utero che vi avvolge, vi contiene come delle mamme che vi abbracciano. C'è una cosa, sì, funziona come letto, come divano, come poltrona, come bozzolo per diventare farfalle meravigliose. Cioè è una cosa pazzesca, cioè assolutamente d'accordo. Ora veramente la maha, non stiamo dicendo la maha sull'Everest è il top. No, vabbè, cioè, la maha quando inizia la bella stagione, con maggio circa, diciamo, forse anche aprile puoi arrischiarla, io l'ho arrischiata, diciamo la verità. E può andare. Bene, è andata bene, sempre benissimo. Ma poi basta mettere usare un sacco a pelo adeguato buono alla stagione, non è sì, che... Sì, prendi un bel sacco a pelone, di base ti sali sul pesante, no? Diciamo, vai sul sacco a pelo più pesante che porteresti in quel momento, diciamo, no? Sì, diciamo. Quindi... che continui a usare magari le piume fino a maggio. Sì. Poi a che passi alla fibra. Sì, o se no i sinteticoni. E poi dei lenzolini, della roba così. Ma proprio la tecnica, ora... Poi ognuno c'ha la sua, no? Così, ma a me personalmente piace molto dormire di fianco, no? Cioè, è una cosa, non lo so, mi fa sentire più protetto, mi piace di più, mi abbracci il cuscino, queste cose qua. E io pensavo non fosse possibile con la maca questa cosa qua, no? E invece se ti metti un pochino storto sulla tela, no? Se metti i piedi fuori tendenzialmente, metti un piede fuori così e ti allarghi un po' la maca, trovi un pertugio dritto in cui... le forze si distribuiscono equamente, del tuo peso si distribuisce equamente, E te puoi metterti anche di fianco, puoi metterti a pancia all'aria, puoi però questo a è il tuo modo di dormire, cioè la bellezza della maca anche che è davvero si adatta a qualsiasi tipo di... Io non dormo come te, per esempio. Mettiamo, ti garba pancia all'aria, a te come ti garba? Allora, il mio top sarebbe a pancia in giù, però in realtà in amaca secondo me il massimo della comodità è laterale, in effetti, come dici te. Sì, però non con la tecnica. Un po' stortino. Quindi davvero invitiamo a provare, per trovare anche se stessi, trovando la propria posizione. Infatti, allora, questo non voleva essere un intervento solo di... per esaltare questa cosa e basta, volevo anche dare alcune, volevo dare alcune dritte, alcuni consigli, alcune risposte alle critiche più, più diffuse e anche più superficiali, perché non si pongono un problema provandolo e sperimentando. Ovvero, critica numero uno, che fa male alla schiena, che crea uno stacco alla schiena. Come si dice? Ricurva e quindi ti svegli col mal di schiena. Questo falso. Primo pregiudizio, falso. Falso. Uno, come evitare ciò? Uno, tendete bene la maca, fissatela per bene agli alberi e tenetela attesa. E questo è il primo passo. E più o meno alla stessa altezza. Non devi una strabellissima tecnica ci ha insegnato un nostro vicino di amaca. Che avevamo accanto un pro della maca, una maca mimetica con zanzariera. Vabbè, una cosa fantascientifica. Quasi, cioè, mancava la parabola, era una casa praticamente. Lui prendeva due cordini insieme e li legava a vari punti insieme, in modo da lasciare, diciamo, degli anelli fatti da se te prendi due fili, no? Paralleli, diciamo, ci fai dei nodini lungo il corso dei fili, ti rimangono i due fili annodati e degli anelli nel mezzo tra i vari nodi, ok? Ci siamo. A questa maniera e con un moschettone te puoi scegliere veramente quanto tirare la tua maca. Se te fai il fighissimo nodo, cioè te vai a fare il nodo, poi dall'albero la tiri al punto, come una cintura, cioè raggiungi il nodino che ti garba di più per la tensione massima, cioè massima, quella gradita, diciamo. E poi ma quella anche quella massima in generale, quella gradita, perché poi la tensione giusta dal vento ti crea il supporto giusto. L'altro accorgimento è quello di posizionarsi non proprio diritti nella maca, ma di stare un pochino di sbieco, cioè con tipo a 75 gradi, insomma un pochino di sbieco, e questo crea una tensione tale sui punti della maca, tale che la parte che sta sotto la schiena, che sta, su cui si poggia, è sta diritta per forza delle cose. Certo, cioè, certo. Cioè la curva lo fa è fisica, no? Io vorrei dire una cosa. Appunto, la maca, che è un po' uno style of life, nel senso anche poi dopo ti diverti anche con l'immaginazione a posizionarla e a interconnetterla con gli altri. Per esempio, questo fine settimana abbiamo fatto la maca dell'amicizia. A distanza. No, perché praticamente avevamo una sola, praticamente avevamo due sole corde per tre amache. E quindi da un lato abbiamo usato solo queste due corde. Però le avevamo messe in modo tale che era perfetto e comodo solo se tutti e tre eravamo insieme a rilassarci. Uno da solo no, non poteva. Era il massimo della goduria, era tutti e tre. Quindi era la maca dell'amicizia. Bellissimo. Pensa te cosa tiri fuori, pratiche davvero rivoluzionarie. Poi, a me è venuto, potremmo metterle a castello prima o poi, no? Sì, cioè, sì, tipo, io ci sto. La maca a castello. Io sto sopra. Qualcuno che si arrampica un po' meglio di me sugli alberi, magari. Tipo, potrebbe arrivare a 2-3 metri d'altezza, piantare, cioè piazzare il filo da una parte e da quell'altra. Io la piazzo di sotto e si fa le amache a castello, cioè, poi si fa anche la scaletta. Comunque, per non dire che siamo soltanto di elencare soltanto i lati positivi, dobbiamo segnalare anche alcune piccole pecche. Tipo, io non ne ho. Ad esempio, io consiglio, dopo questa prima esperienza, consiglio di utilizzare una lucina, una piccola qualcosa da appendere alla maca in cima, in fondo, perché la notte nei campeggi capita che ci sono un sacco di fattoni che camminano va bene. E poi c'è anche Isernia delle volte e ti schiantano contro. Però è quello, quindi basta un accorgimento. Non è antifattone. Se la tenda, uno prima di arrivare inciampa sulla tenda, inciampa sul filo e casca per terra e si fa male. E al massimo ti svegliano i lamenti. Non vabbè, ti spicca. Comunque ha la sua punizione per essere passato fatto. Con la maca uno passa, sbom, e fa ops. scusi. Però insomma è un dettaglio per dire che non ci sono anche delle piccole critiche. Anzi, se altre persone di esperienza che amano la maca vorranno segnalarci altri trick, altre soluzioni comode, altre... C'è il fatto anche del rumore, cioè non scherma rumore... minimamente il rumore. Ora anche la tenda, sì, il rumore, io lo segnalo in particolare per una nostra probabilmente ascoltatrice così, che era con noi, la cui identità proteggeremo chiamandola Isernia, la quale ha avuto la meravigliosa idea l'ultimo giorno di cercare i suoi orari del treno per raggiungere località X, non mi ricordo, e di commentarli a voce alta a 30-40 centimetri dal mio orecchio. Dopo un pochino anche un'altra nostra amica si è messa lì a chiacchierare, è venuta fuori un'amabile conversazione a distanza di 30-40-50 centimetri dal mio orecchio. Ne è venuto, cioè veramente dovrebbero farlo prima, non lo so, di un mio colloquio con il mio datore di lavoro, una cosa del genere, in quei momenti in cui devo essere cattivo e caricato, non lo so, prima di una partita, prima di un qualcosa, ti alzi con una grinta assurda, quindi cioè, ci sono effetti collaterali, perché insomma ti alzi un po' scontroso, però al tempo stesso una... E questo è il momento dello sfogo. Quindi, il consiglio è attenzione accanto a chi vi mettete. Sì, esatto. No, poverini, oggi voglio bene di nuovo. Oggi voglio bene di nuovo a tutti, ma ieri davvero, cioè, non volevo bene quasi a nessuno. Devo ammettere. Bon, va bene, tante chiacchiere. Grippo, come avevi suggerito questo... Qual è quello di Taj Mahal? Queen B. Vabbè, questo pezzone. Allora peccato andiamo... di sto blusettaccio di Taj Mahal. Mamma mia. A te ti garba questa. Sì, a bestia. Vai, Wombat. Come at me, yeah. Step out the fields of me. Step out the fields of me. soul. Oh, you are better my soul. You are better my soul. Oh, you are better my soul. Oh. Mackie galleggiava nella stanza, tenendosi vicino alla spalla di Dopel e a una quindicina di metri buoni da Kit. Nonostante questo, continuava a parlargli nel cervello. A quanto pare le distanze non contavano per la sfera. Inoltre Kit era convinto che Mackie conversasse telepaticamente con più persone nello stesso tempo, perché era ovvio che, pur continuando a rivolgersi a lui, stesse dirigendo Dopel e i suoi tecnici. «È chiaro, ti riesce difficile capire», disse la voce di Mackie. «L'infinito non è una cosa che si possa veramente concepire, ma esiste un numero infinito di universi». «Dove?» chiese la mente di Kit. «In dimensioni parallele o...» «La dimensione non è che un attributo di un universo, valido soltanto in quel particolare universo. Da qualunque altro punto di vista un universo, esso stesso è un'infinità di spazio, non è che un punto senza dimensioni. C'è un'infinità di punti sulla capocchia di uno spillo quanti in un universo infinito. Oppure in un'infinità di universi infiniti. È l'infinito elevato a una potenza infinita e ancora soltanto infinito. Lo capisci? Quasi. Abbiamo un numero infinito di universi coesistenti. In questo numero sono compresi il mio universo e quello da cui provieni. Ugualmente reali, ugualmente veri. Ma tu, Kit Winton, riesci a capire cosa voglia dire infinità degli universi? Beh, sì e no. Significa che ogni universo concepibile esiste. C'è, per esempio, un universo in cui ora si svolge questa stessa scena, con la sola eccezione che tu o il tuo equivalente porti scarpe marroni invece di scarpe nere. C'è un numero infinito di variazioni, dei caratteri variabili, per cui in un altro caso avrai una graffatura in un dito o in un altro corna purpuree, in un altro... E sono sempre io? No, nessuno di questi sei tu, almeno più di quanto tu non sia il Kit Winton di questo universo. In effetti avrei dovuto evitare l'uso dei pronomi, perché mi riferisco a entità individuali separate. Prendiamo per esempio il Kit Winton di questo mondo. Nella nostra particolare variante c'è una sensibile differenza fisica. Anzi, non c'è nessuna somiglianza con te, ma tu e il tuo equivalente avete più o meno la stessa storia, e con vostra meraviglia vi siete accorti di aver scritto gli stessi racconti in un determinato periodo di tempo. Inoltre, ci sono alcune somiglianze fra il mio padrone Dopel e un fan della fantascienza di nome Doppelberg che vive nel tuo mondo, ma non sono la stessa persona. «Se ci sono infiniti universi», disse Kit con aria pensosa, «allora devono esistere tutte le possibili combinazioni, quindi, in un certo senso, in un posto o nell'altro, tutto deve essere vero. Voglio dire che scrivere un racconto di finzione deve essere impossibile, perché, per strane che possano sembrare le cose raccontate, possono in realtà verificarsi altrove, non è così? Certo, esiste un universo in cui Huckleberry Finn è una persona reale, fa le stesse cose e Mark Twain li fa fare nel suo libro. In realtà ci sono infiniti universi in cui un certo Huckleberry Finn fa ogni possibile variante di quello che Mark Twain avrebbe potuto fargli fare. Quali che fossero le variazioni, importanti o no, che Mark Twain avesse voluto apportare al soggetto, sarebbero state comunque vere. La mente di Kit cominciò a confondersi. Ma allora c'è un numero infinito di universi in cui noi, oppure i nostri equivalenti, fabbrichiamo un dispositivo Barton per sconfiggere gli arturiani che attaccano. In alcuni di questi universi ce la faremo, in altri perderemo. Esatto. Naturalmente c'è un numero infinito di universi in cui non esistiamo affatto. Vale a dire, non esistono creature simili a noi, anzi, la razza umana non esiste proprio. Ci sono infiniti universi in cui i fiori sono la forma dominante, oppure non si è mai sviluppata né mai si svilupperà alcuna forma di vita. E infiniti universi in cui le fasi dell'esistenza sono tali che non abbiamo parole né pensieri per descriverle o immaginarle. Assurdo universo, Frederick Brown. Are flowing out like endless rain into a paper cup. This light of white, the best to slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy as I'm drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jigaboo day. Nothing's gonna change my world, and nothing's gonna change my world. Images of broken lights which dance before me like a million eyes, they call me on and on and on across the universe. Notes of meaning like a restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they made their way across the universe. Jigaboo day bound. Nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world. Sounds of love, the shades of order ringing through my open ears inside an end inviting me. Limitless abiding love which shines around me like a million suns and calls me on and on and on across the universe. Jigaboo day bound. Nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, and nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world. Jigaboo day. È andata così, un po' estemporanea, però stava a chiacchierare di universe e io ho detto ma facciamo una cross the universe, porcaccia di quella maiava. Bravissimo, eccezionale. Eccezionale anche. Beatles, tanto lo sanno tutti. Sì, sì, sì, sì, sì, grazie Grippo. Grazie Tasso. Prego, tu. A letto, Tasso. A letto, Tasso. No, sei genere, secondo me. A letto tasso. Questo è Meta Radio. A letto tasso. A letto. A letto tasso. Così. Incantato Grippo. Insomma, vi ho fatto questa interessante lettura da Sud Universo, questo romanzo di Frederick Brown. Non è male come idea, insomma, appunto, questa infinità degli universi, talmente infiniti che non esiste la finzione, l'invenzione, perché in realtà quello che tu stai inventando adesso, magari scrivendo un romanzo di fantasia, possibile di questi universi, è così, è esattamente come la stai immaginando te. Tipo, esiste tutto ciò che io non riesco certo, quello è... ancora a immaginare. Cioè quel concetto lì è praticamente ovvio, esistono altre forme di vita. Citare, per citare Blu Vertigo. No, molto bellino, molto, molto suggestivo, come... molto ricco di spunti di riflessione, soprattutto narrativi, perché poi penso la fisica avrebbe qualcosa da ridire su... Non so, però perché ho ascoltato questo talk sulla fisica quantistica, c'ho cioè, tipo un mondo di particelle, onde, sì, cose in testa che... Cioè, la fisica sta cercando di capirci qualcosa, poi la realtà dei fatti è che ancora ci sono dei grossi limiti alla conoscenza, e quindi da questo all'infinità di In realtà quello che si è scoperto fino per ora, cioè fino al massimo di conoscenza adesso, è che... Ci abbiamo capito un cazzo. Esatto, che più vai a fondo nelle cose e meno sai. E infatti è proprio ciò che dice la fisica odierna, cioè che l'indeterminatezza delle misure... Ok, non sono un fisico, però ho capito che davvero tutto ciò che noi vediamo, percepiamo a livello macroscopico è soltanto un'approssimazione, è soltanto un è il grado dell'indeterminatezza con cui lavora la nostra percezione. Se invece andiamo a vedere a livello microscopico cosa accade, non esiste un cazzo, non c'è un cazzo, tutto non esiste il tempo, non esiste tutto indeterminato, e è una bella bega. C'è però appunto queste cose, questa infarinatura che ho fatto al LAC Meeting, è ovviamente ben poco, ben poca cosa, e si capisce da come ve la sto esponendo da pesci così. Però insomma si aprono delle tanto degli spunti di riflessione, delle cose non indifferenti, ma proprio risposta alle domande esistenziali che ci poniamo ogni giorno, o forse un giorno sì, un giorno no. Però c'è intorno a noi adesso un po' un revival della fiducia nella scienza, o comunque dell'interesse verso come funziona il nostro mondo fisico, come funzionano le cose intorno a noi. Ora, ad Hack Meeting abbiamo parlato, centrava il discorso della fisica quantistica proprio per questo, perché la fisica si tratta di come funziona il mondo, cioè di scoprire come vanno le cose. Allora, dico questo per sfruttare un po' questo microfono aperto che ho davanti alla mia bocca. Prego. Perché sto da una parte leggendo, è uscito un libriccino di Carlo Rovelli, che è un professore di fisica di Roma che si occupa principalmente del tempo, del ragionamento sul tempo, che ha pubblicato un libro appunto sul tempo, che cerca di essere arrivabile, cerca di essere comprensibile per il grande pubblico, però caro mio, ci sono dei concetti che, cioè, voglia te a spiegarli, a fare esempi, però appunto uno può farsi un'idea, può intuire per un momento cosa vuol dire che non esiste il tempo, però poi nella percezione reale dell'ogni giorno è una cosa completamente antilogica, quindi è difficilissimo anche concepirlo, cioè come concepi l'infinito, come concepi. E quindi vabbè, ora sto libro fra l'altro è pubblicato da una grandissima casa editrice, quindi se soldi, insomma, però Carlo Rovelli è un grande, e volevo invece nel libro abbiamo appena letto, appunto, il protagonista gli fa la macchina, gli fa la capisci l'infinito, lui quasi parliamone. Scusami, dicevi? No, in realtà proseguo questo svarione sulla fisica anticipando una cosa che volevo fare da tempo e che forse farò. C'è una piccola rubrichetta su film e serie televisive, un po' cose non figata. Tanto per dire guardati questo perché l'ho visto, è figo, quanto perché ci sono alcune cose che sono interessanti al di là del... cioè è una di queste cose, una serie che mi sto guardando in questo momento, sta uscendo, si intitola Genius, che tratta proprio di Einstein, della vita di Einstein, ed è molto interessante perché ripercorre un po' un doppio binario, quello dalla gioventù, l'Einstein giovane e l'Einstein vecchio. Tramite l'Einstein giovane si ripercorre un po' la storia dell'evoluzione della fisica degli ultimi due secoli, cioè tanto fino all'Ottocento e inizio Novecento, e quindi un sacco di roba interessante anche vedersi un po', cioè vedere gli esperimenti mentali che Einstein proponeva ai propri allievi, che effettivamente funzionano per riuscire a concepire, anche senza conoscere le formule fisiche e matematiche, a avere un minimo di intuizione di ciò che sono questi concetti di alta fisica. L'altro binario su cui si muove questa serie è quello dell'Einstein invece anziano, che si ritrova a vivere appunto nella Germania nazista, e quindi lui da ebreo, che inizialmente vuole restare nella nazione, seppur non si riconosce come tedesco. Lui ha chiesto anche ottenuto di essere apolide, cioè di rinunciare alla nazionalità. Sì. Dice di non fuggire di fronte a questa cosa, perché se fuggiamo vincono loro, che è un po' una cosa in cui ci rispecchiamo noi, senza dubbio. Poi ovviamente la cosa va avanti, cioè insomma Hitler, da quel buffoncello che tutti pigliano sotto gamba, poi diventa quel figlio di Dio che conosciamo. E niente, ora la serie sta uscendo. Bravo, sì, sta a tenere dai sessismi, bravo. Niente, non voglio fare pubblicità, no, allora, oltremodo molto... a questa cosa, che comunque è prodotta dalla National Geographic, quindi ha anche un minimo di, credo, di pertinenza, non è soltanto la storiellina infiocchettata che fa per mitizzare un personaggio, è una ricostruzione storica e biografica e storica che mi sta piacendo. E poi tutto questo discorso di cui hai parlato finora è la fisica, e si fonde un po' alla filosofia, perché comunque se studi Kant, Hegel, gli idealisti, e poi ragiona proprio su questo, sulla percezione di quello che ci circonda, e di conseguenza si va a finire a parlare anche di che cos'è la percezione di ciò che vediamo, di come la nostra mente lo modella, e quindi di conseguenza poi questi infiniti universi ci possono essere, e probabilmente noi non riusciamo semplicemente a percepire attraverso la nostra mente, non so. Quindi è tutta ora la finisco qui, perché è veramente sicuramente gli sviluppi della fisica, le robe che si immagina la fisica per spiegare come il funzionamento del mondo, hanno delle implicazioni filosofiche, museologiche, insomma di una certa portata. Sono concetti alti, è un bello sforzo, però boia, cioè io nel mio umilmente ho le vertigini. Assolutamente, poi io tutte le volte penso a queste cose mi sembra di fare un po' ginnastica mentale, come dopo hai fatto ginnastica il corpo è un pochino più bella, la mia mente dopo che ho pensato a queste cose va un po' al doppio tipo. Sì, e poi per due giorni sta sdraiata in Omaha. Vabbè. E si ritorna all'argomento precedentemente trattato. Volevi dirci qualcosa, Tassi? Un po' storta, sì, no, stavo pensando che forse al di là di considerare per ora i limiti degli strumenti che abbiamo per capire un po' come vanno le cose, magari c'è anche ragione che ha un approccio un po' più pratico, un po' più diretto. Viene in mente la battuta di Bender di Futurama e fa: oh, fotoni, non so se siete onde o particelle, però il vostro effetto è paradisiaco. Fine. Super Bender. In effetti è così. E ci sollazziamo un po'? Sollazziamoci. Con cosa ci sollazzi? Sono... I Free con Mr. Big Wombat. So much love that she saves it all for me.

Questi erano i Free con Mr. Big, un gruppo che ha attraversato i fine 60-70 passando per l'isola di Wight, con questa voce di Paul Rogers che forse avrete risentito nella per la reunion dei Queen. È stato Paul Rogers che ha sostituito il compianto Freddie Mercury. No, avevate i microfoni spenti, volevo dirla io questa cosa, non volevo che ci fossero interferenze. E ora ci hai dato parola. Potere. Megalomani. E giunti a questo punto della giornata, punta trasmissione. È giunto il momento delle informazioni, degli eventi che ci saranno in settimana, di un po' di suggerimenti. Esatto, allora, poi aggiungete se avete delle aggiunte. Io ho trovato di interessante tre eventi, purtroppo, lo stesso giorno, cioè il 22. E purtroppo c'è una grande scelta. C'è una grande scelta, esatto. Allora, per solazzarvi la sera, giovedì 22, potete andare in Polveriera, che c'è la peri punk dalle ore 19, appunto una serata dedicata al punk con gruppi come YCCY, non so se si pronunciano così, ma sì sono sicuro di ok sì. Perfetto. Avverso e Saat potete trovare sull'evento, se lo cercate, anche proprio chi sono questi gruppi e cosa suonano, tendenzialmente punk. Ok, evento organizzato dal collettivo Nuovi Rumori. Organizzato da Nuovi Rumori, quindi non perdetevi questa interessante serata. Lo stesso giorno, però, il pomeriggio, dovreste non trovarvi a Firenze, ma invece andare a Lucca, perché c'è la manifestazione alle 17.30 in Piazza Santa Maria contro Salvini, diciamo. Andate, in Polveriera dicono che aspettano a dare da mangiare per quelli che ritornano. Assolutamente. A Lucca. Lucca ha bisogno di una mano in questo momento storico, ragazzi, perché ultime elezioni andate malino, la destra avanza, quindi andiamo a sostenere i compagni di Lucca. Città un po' buia, un po' scura. Anche se mi dicono che le colline resistono e sono ancora... È dentro le mura. Mi è giunta un'altra notizia di una situazione... un'altra notizia di una situazione al solito non... non felice, ovvero a Bologna, dove... c'è forte depressione, c'è certo, da un po'. I compagni che tentano di occupare nuovi spazi, che vengono sgomberati e tentano di occupare nuovi spazi, che vengono acchiappati e tenuti in questura per un giorno intero, così senza motivo apparente, se non il... intimidire? No, se non il... non viene la parola, comunque quando viene ve la dico. E quindi anche solidarietà ai compagni di Bologna. Assolutamente. E sempre giovedì, se vi interessa, invece, dalle 17 alle 19, nello spazio, nell'inchiostro, di cui abbiamo parlato diverse volte, c'è la presentazione invece di Disegni Ribelli, un fumetto dedicato alla resistenza, alla memoria della resistenza, molto interessante. Quindi, l'autrice Milena Prestia. Esattamente. Che abbiamo incontrato anche più volte qua in Polveriera. Sì. C'è là in Polveriera. Ebbene, mentre vi do un altro, altri due, anzi uno ve lo do io, un altro ve lo darà il qui presente Tasso. Il 23 all'Utopico, però con ingresso gratuito, alle 22.30 c'è l'ultimo concerto del gruppo a noi molto amico, che sono gli Afrimama, che dopo 6 anni e 100 concerti virano verso il loro ultimo concerto, e quindi ci faceva piacere raccontarvi che potrebbe essere interessante andarci venerdì. Ultimo concerto degli Afrimama, che però poi è occasione per un futuro radioso per tutti i membri che proseguiranno felicemente certo. In grandi altri progetti. Glielo auguriamo tantissimo, siamo sicuri che succederà. Mentre lo stesso giorno però, se prima, perché avviene prima, immagino, bene, c'è... diciamo uno spettacolo teatrale sempre in Polveriera. C'è il risultato di questo laboratorio teatrale che si è svolto nei locali della Polveriera alle ore 9, quasi sicuramente giù in chiostro di Santa Pollonia, E nulla, è un percorso che è stato affrontato da certi ragazzi alle prime armi, volevano approcciarsi al mondo del teatro, qualcuno aveva già dei precedenti nel mondo artistico, soprattutto della musica. È stato diretto da Filippo Frittelli, che è anche un amico con quale ho anche collaborato e ho partecipato anche a questo laboratorio. E il titolo è basato su Giulietta e Romeo, il titolo è Io Giulietta, è uno spettacolo, il pretesto è stato Shakespeare per usare un testo conosciuto dove sono state destrutturate sia le scene che i personaggi, in special modo quello di Giulietta. E verrà, per quello che ho visto finora, sarà un'oretta divertente. Sarebbe un'oretta divertente perché i partecipanti sono motivati, gasati e si vede, si divertono mentre montano lo spettacolo. Quindi siete tutti invitati alle ore 9 in Santa Apollonia, venerdì 23. Che meraviglia, un venerdì radioso, direi, pieno di cose interessanti. Ebbene, stiamo giungendo verso la conclusione. Ci sono, vero? Mi state sentendo, ragazzi? Sì, sì, ci sei, quindi. Ecco. Sì, tu chino. Io già ho ripescato il comunicato di cui vi accennavo prima, girato dalla rete Hit the Rich, che però era lunghino, forse non abbiamo il tempo di leggerlo, però vi rimando appunto alla pagina di Hit the Rich per approfondire un attimo. Sono successi fatti importanti, insomma. Ok, ti riferisci a Bologna? Sì, perfetto. Sì, sì, a Bologna. Ottimo. Cioè, ottimo. Ammazza. E allora? Ma c'erano altri eventi in programma, no, da... Che io niente. Abbia trovato? No. Minchia, a Firenze non c'è mai un cazzo, proprio. No. Che palle. Magari solo... sì. Ah, volevo chiederti. Ah, già, ma calci dal basso. Ah, calci dal basso. Un tasto dolente. Lo so. Stavo glissando... Tristi. Avevo già detto scorsa settimana, ma vogliamo sentire un attimino. Esatto, alla fine è giusto informare della panico. Sei pure infortunato, sapevamo. Pure infortunato, sì, infortuni, a parte quello costante che ci... Gli infortuni costanti al cervello che ci facciamo per convincerci ad andare a giocare a pallone con questo caldo torrido nel campo del Dazzi che... Come noto, non è coperto per una scelta politica, è stato deciso di non fare la copertura come i grandi stadi. Sono andate avanti, sì, il torneo dopo le fasi a gironi che avevano visto la nostra squadra, quella che ce la presenta, l'Atletico Degrado, tifosissimi, che ha passato i gironi. Non è riuscito il Degrado a superare invece le fasi eliminatorie, perdendo contro la squadra di casa, la Dinamo Dazzi, per 2-1 dopo uno scontro veramente epico. C'è una maledizione perché sono tradizioni che il Dazzi più o meno in modo trasparente riesce a sfruttare la fattanza del Degrado. La polemica. Sì, è il momento questo. Di la polemica. Però, vabbè, questo finali... non vuol dire che appunto il torneo continuiamo a sostenerlo e a parteciparvi, certo. Perché è un torneo autogestito dal basso, pieno di gente che ci... insomma, con cui condividiamo tanti altri momenti e con cui abbiamo deciso di anche condividere lo sport, uno sport dal basso. Ricordiamo la festa in occasione della finale. Aspetta, sto arrivando. Scusa. Quindi le giornate di sport del torneo sono grandi momenti di socialità e di amicizia, non c'è agonismo, non ci sono arbitri, ma tutto è autogestito dai giocatori che appunto sono chiamati ad avere un certo comportamento sportivo. Poi vabbè, capitano qualche pedata in più, ma quello si sa, poi c'è tutto a baci e abbracci dopo. Dicevo, la faccio lunga, e birrini, sì, chiaramente, joints. Mojito, football. Il prossimo appuntamento con calcio dal basso sarà quello conclusivo la settimana prossima, domenica 24. Sabato 24. La finale che vedrà scontrarsi... Come l'anno scorso, mi pare, fra l'altro, l'Operazione Rebelde contro i Frammenti e Trame. Frammenti e Trame. che sono due squadroni, squadre più forti. Ti fiamo, ragazzi. Io fra me e trame, ragazzi, cioè di appartenenza, tocca. Di quartiere, cioè, sì, per forza devo ti fare fra me e trame e voglio ti fare fra me e trame. Forza Curi, forza fra me e trame, puttana dell'epa. A che noi forse mi trovo che c'ho un parente, c'è anche un parente. È vero. Siamo tutti frammenti e tramici, mi sa. E sì, niente, quindi ci sarà la partita, la finale, seguita poi dalla grande festa che non sarà per il vincitore ma per tutti i partecipanti e per tutti gli altri, perché coincide con quello che è il compleanno, l'anniversario dell'occupazione del Cecco Rivolta, lo spazio appunto che ospita questo torneo. Quindi è fra due settimane, ve lo ridiremo, ma insomma venite a festeggiare il degrado, con il degrado. Viva. Evviva! Allora, sentiamoci un ultimo pezzo e poi ci salutiamo definitivamente per oggi, risentendoci lunedì prossimo qui su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. Yeah, Wombat Wombat. Wombat Wombat. Wombat Wombat. Hello there. Recent developments have seen the jazz world split in two by a new wave of musicians calling themselves disc jockeys. Those in favor describe the phenomena as a fresh rush of blood in the aging corpse of music. Those against prefer the term emperor's new clothes. Tonight you may judge for yourselves as we bring you the Propeller Heads, who together with the legendary Shirley Bassey play their arrangement, History Repeating. What is it about? There's something evolving. Wherever we come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. We'll be right back. Well, what can I say? It's different. Sì, ci siamo. La musica non c'è. La musica non c'è, non ce la dai? Non ci dai lo sprint finale? Mettici qualcosa, dai, al volo. Oh. Siamo alla... Benvenuti alla 29ª puntata di Fuga del Gatto. Della Fuga del Gatto. No, no, no, siamo qua, siamo qua. Siamo ai saluti. Siamo ai saluti. Siamo ai saluti. Ma prima di salutare volevamo dire che è uscito il nuovo numero di Ruggine. Mi è venuta in mente questa cosa perché... perché ci ho scritto il racconto sopra. Ruggine l'avete forse sentito al Festival di Letteratura Sociale. È stato presentato. Perché salta un po' tutto? Non lo so. Facciamo finta di nulla? È stato presentato l'ultimo numero al Festival di Letteratura Sociale. In realtà non era proprio la presentazione, ma era le letture. Vabbè, insomma, sì. Ruggine è rivistato prodotta. Salta tutto. Giunta a periodico, giunta alla settima pubblicazione. Presto nei migliori spazi sociali, nelle migliori biblioteche autogestite troverete appunto il numero 7. Se invece volete sentire la presentazione / performance dello scorso numero, potete andare a cercare su fra i podcast il podcast dedicato proprio a quella serata del Festival della Letteratura Sociale, se non sbaglio il terzo giorno, e che è già disponibile, quindi no, il secondo giorno, venerdì, è già disponibile, quindi potete già andare a risentirvelo se siete curiosi. A proposito, ho notato che ancora non sono stati caricati i podcast del terzo e quarto giorno. Allora, il terzo sì, mancano delle tracce, ma presto ci saranno, e poi domenica, ma questa settimana, vediamo se riusciamo a caricarlo. Però, promesso. Piano piano, no, non promettiamo niente. No, promettiamo tutto. Promettiamo tutto, promettiamo niente. Ci... A tempo debito, a tempo con calma, debito. Con calma. E per favore. Quindi, niente, siamo qui. Ci salutiamo. Siamo noi, salutiamo chi non c'è potuto essere oggi. Quindi, ciao Pedro. Ciao Pedro. Ciao Moca. Ciao Moca. Si sta bene sulla maca, Moca. Esattamente. Da retta e Wombat. Da retta e Wombat. Ci sentiamo Wombat. Lunedì prossimo, sempre a quest'ora. Cioè, dalle 16.30 alle 18.30. Due ore fa. No, ciao, due ore fa. Qui su Radio Wombat. Buona. Buona. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ma che succede qui? Hanno confiscato tutto, anche quello che non abbiamo rubato. Hanno preso anche il bar! Ma vi rendete conto? Il bar!